Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, buon pomeriggio, le 16.08, al microfono Luca Tremolada, Guido Romeo, buongiorno. Buonasera, buongiorno. Allora, Copenaghen a 48 ore, l'abbiamo sentito nel giornale radio, 48 ore alla chiusura dei lavori. Ancora scontri che accordi. Esatto, ancora in altissimo mare le trattative, il colpo di scena o presunto colpo di scena del cambio alla presidenza, si dice che ci siano i paesi africani dietro questa mossa, ma poi la proposta di taglio della Cina, giudicata insufficiente dagli esperti. Insomma, torniamo un po' a bomba sul clima e sulle problematiche ambientali. Sì, comunque va sottolineato che a Copenaghen è vero, non hanno ancora l'accordo, ma l'accordo per definizione arriva alla fine, non arriva due giorni prima della fine, e almeno c'è questa nuova bozza di agreement più politica. Il segnale credo che sia che verrà fuori qualcosa, insomma. Qualcosa, e noi saremo qui. Inatteso forse, ma ci sarà qualcosa sicuramente da raccontare. Come sono inattese alcune soluzioni per cambiare il clima, cioè alcune pratiche purtroppo legali da un certo punto di vista. Cioè parliamo di la possibilità da parte dell'uomo di cambiare il clima, di cambiare il tempo. Di fare quello che ha fatto la natura. I tecnici lo chiamano geoengineering, ma letteralmente ingegneria planetaria, cioè cambiare la densità dell'atmosfera, la riflessione solare, cose, aumentare o diminuire l'apporto di calore sulla Terra, cose che hanno fatto in passato per esempio i vulcani o i grandi cataclismi. Adesso l'ha fatto la Cina, lo fanno altri. La Cina ci sta pensando, è un po' anche una leggenda metropolitana, ma sicuramente Russia, Cina, tutti hanno cercato di sperimentare un po' con questi sistemi per far piovere, far smettere di piovere, eccetera. Si sta pensando anche a cose molto molto più perché là. La parte che a noi è un po' interessata è che mentre si discute a Copenaghen c'è già chi potrebbe cambiare il clima. Sentiamo nella scheda di Guido Romeo come funziona il geoengineering. Specchi orbitali, nuvole artificiali, aerosol riflettenti diffusi nell'atmosfera e ferro per fertilizzare gli oceani e stimolarne l'assorbimento di CO2. La soluzione al cambiamento climatico è nelle tecnologie del geoengineering, in grado di manipolare il clima dell'intero pianeta? La scala e la natura dei progetti hanno un che di fantascientifico, ma il tema è ormai oggetto di discussione costante da parte di scienziati e politici, in questi giorni alle prese con gli accordi che dovrebbero uscire dal summit di Copenaghen. Qualche settimana fa, la prestigiosa Royal Society britannica ha pubblicato un rapporto cautamente fiducioso nei confronti di queste soluzioni. Se non si riuscirà a limitare l'aumento di temperature al di sotto dei 2 gradi prospettati, l'unica soluzione, secondo i ricercatori britannici, potrebbe essere proprio il ricorso a interventi tecnologici e radicali, alcuni dei quali in realtà già vicini all'applicazione industriale. La cattura e lo stoccaggio sotterraneo dell'anidride carbonica, ad esempio, potrebbe presto diventare realtà in Germania grazie a un impianto pilota. E anche gli Stati Uniti guardano a queste soluzioni. Diversa è però la questione di grandi interventi che coinvolgano i sistemi naturali, come la creazione di nuvole artificiali in gradi, per riflettere i raggi solari o stimolare l'assorbimento di CO2 da parte degli oceani. Molti esperti già ne sottolineano i rischi. Il climatologo americano Alan Robock ha recentemente sottolineato come i climi regionali in passato sono cambiati drasticamente in seguito all'eruzione di vulcani che hanno immesso nell'atmosfera particelle di zolfo, provocando gravissime siccità. A sua volta, spingere i mari ad assorbire più CO2 rischia di renderli più acidi e meno pescosi, proprio in un momento nel quale le riserve ittiche sono in crisi e la popolazione mondiale aumenta. Ma soprattutto, chi pagherebbe i danni se qualcosa andasse storto e un aerosol in Cina provocasse una siccità in Brasile? Giustamente, chi pagherebbe questi danni? Te lo chiedi retoricamente nella scheda, Guido? Me lo chiedo retoricamente, ma è anche una discussione che è in corso, perché è chiaro che un paese non diciamo che potrebbe essere un paese come la Cina, ma un grande paese che ha risorse e che ha ambizioni anche soprattutto. Beh, che ha anche problemi di scala, diciamo, importante, che ha un miliardo, diversi milioni di persone e ha bisogno di controllare meglio il suo clima o ha bisogno di rispettare certi obblighi contratti in un summit internazionale. Perché no? Può essere tentato di applicare soluzioni tecnologiche. Noi ne vogliamo parlare con Roberto Vacca, esperto di tecnologia, una voce fuori dal coro sulle questioni ambientali, che è in collegamento con noi. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Ecco, ci stavamo chiedendo queste tecnologie. Innanzitutto facciamo un passo indietro. Qual è la sua impressione su Copenaghen? Abbastanza triste, perché mi pare che trascurano delle considerazioni molto solide fatte da scienziati di notevole calibro come Lord Monckton, Freeman Dyson, Roger Pilk e così via, e soprattutto hanno una fiducia molto ingenua nel fatto che sia possibile realizzare un modello matematico che prevede il clima, che dipende, come sappiamo, da moltissime variabili, addirittura con 100 anni d'anticipo, mentre viceversa si rassegna al fatto che a 2, 3, 4, 5, 10 anni non lo prevede affatto. E ora chi si è occupato di modelli matematici sa bene, ed è peraltro intuitivo, che se conosciamo molto bene un fenomeno, sappiamo le cause, conosciamo gli effetti, conosciamo il meccanismo, questo meccanismo, dato che poi ci sono tanti altri valori stocastici, cioè casuali, che non è difficile anche enumerare singolarmente, questo meccanismo a breve termine potremmo prevederlo con molta precisione, a lungo termine più avanti andiamo nel tempo e meno lo possiamo prevedere. Lei mi sta dicendo che si stanno facendo i conti senza avere dei modelli matematici corretti per prevedere il clima. Certo, questo in parte si sapeva, però, nel senso che si sapeva, si trascura, vede, poi non si tratta dei modelli matematici corretti. Un modello matematico, io me ne sono occupato per parecchi anni di modelli matematici di vario tipo, deve essere validato, e cioè deve essere spiegato il meccanismo per il quale certe dipendenze da causa effetto hanno la loro funzione, e dunque deve servire a prevedere qualche cosa. E ora siamo diventati molto bravi, i meteorologi sono diventati molto bravi a occuparsi appunto di previsioni meteorologiche, sappiamo adesso che con una settimana, 10 giorni in anticipo il clima lo capiamo abbastanza bene, abbiamo i satelliti, conosciamo i meccanismi. Quando andiamo fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, già non lo sappiamo più prevedere affatto. Ad anni di distanza cominciamo a parlare di clima, quando la variazione è lunga, non lo sappiamo fare. Qui poi c'è da fare un altro discorso molto, molto chiaro. Ma lei gli sta dicendo che, non avendo la capacità di fare appunto delle previsioni accerte, questo giustifica una inazione, un non scegliere, non... Non giustifica affatto l'inazione. L'azione deve consistere nello studiare di più, non nel dire abbiamo già studiato quando non è vero. Vede, non molti sanno, la cosa andrebbe pubblicizzata, che 19.000 anni fa, non 19 milioni, 19.000 anni fa, poche migliaia d'anni prima che cominciasse la nostra civiltà, tutto il Nord Europa e il Nord America erano coperti da una coltre di ghiaccio di 2 chilometri di spessore. E già negli anni 30 lo scienziato serbo Milutin Milankovic, facendo unicamente calcoli astronomici, aveva disegnato le curve delle ere glaciali, che dipendono dal fatto che cambiano parametri astronomici, la eccentricità dell'ellisse che la Terra descrive intorno al Sole, l'inclinazione dell'asse terrestre e l'inclinazione dell'asse intorno al quale avviene la precessione degli equinozi. Quando hanno fatto i carotaggi in Antartide hanno visto che Milankovic aveva ragione, e perciò questo grande passaggio dall'era glaciale all'era interglaciale è avvenuto per ragioni astronomiche, e negli ultimi 400.000 anni tutto questo è successo 4 volte. Abbiamo un ciclo di 100.000 anni in cui l'era glaciale viene molto lentamente, ci mette 60-70.000 anni. L'era interglaciale è rapida, questo lo sappiamo bene, 14.000 anni fa questa coltre di ghiaccio si stava sciogliendo e finalmente la isoterma dei 20 gradi ha percorso tutto il mondo, dall'Asia a Mohenjo-Daro, alla Mezzaluna Fertile, alla... Cioè, quindi vacca, sostanzialmente mi sta dicendo che, attenzione, il suo è un richiamare l'attenzione sui numeri. I numeri non ci sono, i tempi sono... No, i numeri ci sono, benissimo, come non ci sono? I numeri ci sono e sappiamo che c'è un ciclo di 100.000 anni e sappiamo anche che su questo se ne sovrappone un altro di 1.000 anni. Vede, qui è stato dimostrato da quest'ultimo scandalo che chiamano Climagate che molte cifre sono state addottorate. Ecco, no, su... ma ecco, Vacca, volevo chiederle questo, volevo riportarla poi sul tracciato iniziale del geoengineering, perché d'accordo, i numeri ci sono, però lei dice andiamo verso un'oscillazione del clima che non è probabilmente causata da ciò che pensiamo, ma che ci può essere. La nostra specie non sappiamo se ci sarà tra 100.000 anni, però sappiamo che se andiamo verso un aumento di 2 gradi o meglio di 6 gradi, come paventano alcuni, sicuramente a quei 100.000 anni avrà molta più difficoltà ad arrivarci. Il geoengineering, cioè intervenire con tecnologie in maniera radicale su scale planetarie, è qualcosa a cui ha senso pensare, o è uno strumento troppo pericoloso, come direbbe il dottor Stranamore, rischia di essere un po' la bomba a fine di mondo? Ha senso pensarci, ma non è detto affatto che funzioni, e se funziona potrebbe funzionare anche nel senso sbagliato, nel senso adesso siamo quasi arrivati al punto in cui potremmo cominciare a andare verso l'era glaciale molto lentamente, e perciò, come diciamo, raffreddiamo il pianeta, supposto che ci riusciamo, cosa che è molto dubbia, forse è proprio la cosa sbagliata da fare. Vede, la cosa che è stata negata e che è dimostrata in tanti modi, sia dalle rilevazioni degli anelli degli alberi, sia dagli carotaggi di ghiaccio e così via, è che 1.000 anni fa il clima era molto più caldo di adesso. La Groenlandia era verde, si chiama Greenland, e poi si è raffreddata, abbiamo avuto la mini era glaciale. Come sappiamo, durante questa mini era glaciale, quando gli scandinavi scapparono dalla Groenlandia, nel 600, 650, 500, il Fenice gelava tutti gli anni, adesso non gela più da secoli. Nell'anno 1000 c'era la vite in Inghilterra, adesso c'è nelle serre. Quindi quello che lei dice è: attenzione, rischiamo di innescare dei processi che non sono irreversibili, ma che sono di lungo periodo, e quindi di interferire con delle dinamiche invece che non comprendiamo completamente. Lei dice non è non fare nulla, ma prima capiamo che cosa dobbiamo fare. Ma io volevo chiedere, perché oltre al resto il successo di queste imprese è tutt'altro che garantito, nel senso validare un modello vuol dire prevedere qualcosa e poi vedere che accada, e per il momento sappiamo che questo non è, nel senso che si parla sempre del 1998 che è l'anno più caldo di quando. Sappiamo bene che il 1938 era altrettanto caldo, forse di più. Ecco, allora, visto che, insomma, come si dice in finanza, qua non c'è un grande accordo neanche sui fondamentali, cioè diciamo sul clima. Allora, noi abbiamo anche in collegamento Antonelli Pasini, lo conosciamo, climatologo del CNR. Buongiorno, dottor Pasini. Buongiorno. Allora, insomma, Vacca dice, attenzione, che i modelli matematici non sono ancora pronti, non sono perfetti, sono perfettibili ma non sono perfetti, e che si sta guardando a un intervallo di tempo che è troppo limitato, il tempo è un po' più lungo e il clima va spalmato su un piano diverso. Lei che si occupa, diciamo, di clima, cosa ne pensa? Io dico che innanzitutto non è vero che guardiamo soltanto al cambiamento climatico recente, sappiamo benissimo che ci sono state le glaciazioni, non ho sentito tutto quello che ha detto Vacca, quindi potrei dire delle cose che sono in contrasto con lui. Comunque ci sono dei modelli paleoclimatici, sappiamo che le glaciazioni sono dovute alle periodicità di Milankovic, diciamo così, ma non è bastato quello, ci sono dei feedback, dei gas a serra che appunto aumentano questo passaggio rapido dalle ere glaciali ai periodi periodi interglaciali, ci sono modelli che vedono queste cose, e poi però noi capiamo che attualmente sta accadendo qualcosa di diverso, cioè che in realtà noi non è che non interferiamo col clima, ma interferiamo, insomma, e quindi in qualche modo quello che sta succedendo adesso è qualcosa di diverso da quello che è successo in passato. La domanda era però su che cosa, diciamo, e so che non siamo d'accordo sui fondamenti probabilmente con Vacca, però insomma qui si parla di geoingegneria, di tentativi, e ovviamente i tentativi vanno validati. È chiaro che i modelli devono essere validati sul passato, perché non abbiamo dati sul futuro, non abbiamo il tempo di aspettare probabilmente 50 anni per vedere se la temperatura è cresciuta di 3 gradi, però insomma possiamo validarli. Per esempio si possono fare degli esperimenti del modello, cioè si possono immettere solfati in atmosfera come simulando delle eruzioni vulcaniche magari indotte dall'uomo, e vedere che cosa succede, insomma, e noi possiamo vederlo. Ci spieghi qual è l'effetto di immettere dei solfati in atmosfera, poi, perché magari neanche tutti noi sappiamo che cos'è un solfato in primo luogo. No, certo, ma prendiamo per esempio le eruzioni vulcaniche, che sono ovviamente un fattore assolutamente naturale. Noi abbiamo constatato che subito dopo le eruzioni vulcaniche, per alcuni mesi fino a pochi anni, succede che queste polveri si vanno a mettere nella bassa stratosfera, sono sostanzialmente polveri di solfati, e queste fungono, sostanzialmente assorbono un po' di calore della luce solare lì dove stanno, quindi in alto, diciamo a 20-30 km di altezza, e praticamente fungono da schermo perché non tutta la luce solare giunga al suolo. Un ombrellone naturale. Noi vediamo, sì, vediamo un picco di raffreddamento nei mesi sostanzialmente successivi. Ora, quello che alcuni pensano è di immettere questi solfati in atmosfera in modo tale da controbilanciare l'aumento dei gas serra, sostanzialmente. Ecco. Questo, sì. Sì, sì, prego, prego. No, questo è possibile simularlo in un modello, per esempio, e si vedono cose molto particolari, che per esempio noi potremmo essere in grado di bilanciare la temperatura, ma ci sarebbe comunque uno squilibrio nel ciclo dell'acqua, perché il ciclo dell'acqua non è sensibile, come è sensibile in maniera diversa dalla temperatura, a queste forzanti esterne, diciamo così, per cui si andrebbe incontro in alcune zone comunque a problemi di siccità. Poi c'è un'altra cosa da dire, che cioè noi dovremmo continuare mettere questo materiale in atmosfera, ecco, se c'è una crisi economica, una guerra, cose di questo tipo, non possiamo più farlo. È chiaro che noi siamo in presenza di un sistema che è forzato da due parti, diciamo, come se io avessi una biglia che tiro da una parte con l'anidride carbonica e lo tiro dall'altra con i solfati. Nel momento in cui io lo tiro più da una parte con i solfati, questa parte sostanzialmente per la tangente, quindi ci sarebbero aumenti molto più grandi di quelli che stiamo vedendo adesso di temperatura. Ma insomma, Pasini, lei è stato anche osservatore per il CNR alle Olimpiadi di Pechino 2008, sì. E lì appunto una delle storie, uno dei temi era proprio che i cinesi avevano un grossissimo problema di temperatura troppo calde, limiti di inquinamento, gli atleti si lamentavano, i mal di testa, giramenti di testa, svenimenti. Poi c'erano poi abbassamenti di questi livelli repentini che non si capiva se fossero, come dire, centraline manipolate o se effettivamente loro facessero qualcosa di più. Stavano facendo geoengineering sperimentale o cosa? Geoengineering non climatica, ma meteorologica in qualche modo, nel senso che noi sapevamo che intorno a Pechino c'erano delle batterie che sparavano ioduro d'argento nelle nubi in modo tale da far precipitare al di fuori di Pechino, per esempio preservare la cerimonia d'apertura dalla pioggia, cose di questo tipo. Insomma, poi devo dire che sono state 15-20 giorni abbastanza fortunati dal punto di vista meteorologico, perché c'è stata una certa variabilità, quindi insomma l'aria è stata dilavata più e più volte da precipitazioni, insomma, diciamo che sono stati fortunati dal punto di vista meteorologico. Ecco, per capire se saremo fortunati noi. Nova Lab 24. Allora, bentornati, 16.34, Luca Tremolada al microfono, Guido Romeo, si è aggiunto anche Pierangelo Soldavini, vice capo redattore di Nova 24. Insomma, abbiamo due posizioni discordanti, mi sembra di capire, sull'analisi dei dati e del clima. Tra l'altro, alcuni ascoltatori ci stanno mandando degli sms, noi non abbiamo dato il numero, lo diamo subito, 349-238-6666, per chiamare direttamente in trasmissione, invece l'824-00-24. Noi siamo in collegamento con Roberto Vacca, che insomma ci ha dimostrato di essere una voce un po' fuori dal coro da questo punto di vista, attenzione, anche Antonello Parrini, climatologo del CNR. Io vorrei tornare a Roberto Vacca a questo punto per capire, insomma, cioè partire appunto dai fondamentali. Allora, l'uomo ha o no un ruolo nel riscaldamento climatico, secondo lei? Direi di no. Quando si parla poi di geoingegneria e di effetti che si possono ottenere immettendo in atmosfera particelle che assorbono la radiazione solare e abbassano la temperatura, questo è già successo. La più grande eruzione vulcanica di tutti i tempi successe nell'aprile del 1815, come sappiamo bene, col vulcano Tambora dell'isola della Sonda, e come conseguenza la temperatura si abbassò in alcune parti del mondo di mezzo grado centigrado, e il 1816 in Europa fu chiamato l'anno senza estate. Quando è successo nel 91 l'eruzione del Pignatubo, l'effetto è stato molto molto minore, e perciò qui bisogna stare un po' attenti quando parliamo di mezzo grado in 100 anni, mezzo grado in 150 anni, e quando guardiamo un diagramma dell'aumento della temperatura alla fine della precedente era glaciale, perciò parliamo di 16-17 mila anni fa, l'aumento della temperatura è stato di 9 gradi, e ora 9 gradi è una roba, e 0,6 gradi è un'altra, perciò questi temori che vengono Quindi mi fa già capire, Vacca, sul Climate Gate si è fatto un'idea ben precisa. Il Climate Gate, l'idea precisa l'hanno data le persone coinvolte, nel senso che il MAN, che è quello che aveva praticamente inventato questo diagramma in cui la temperatura era salita soltanto in questo secolo, mille anni fa no, MAN è sotto inchiesta da parte della sua università, Penn State, e anche Phil Jones della Climate Research Unit britannica ha dovuto dare, è stato sospeso in attesa di indagini, perciò non è che sono delle fantasie. Sì, i signori hanno cambiato i numeri. Vacca, io vorrei sottolinearle che è vero, sono stati sospesi, è anche vero che in Inghilterra e negli Stati Uniti forse si lavora in maniera, i ricercatori sono, e tutti, anche poi i politici sono, vivono e lavorano in maniera diversa che in Italia, e quindi giustamente loro hanno un'inchiesta che non è conclusa, ma si sospendono, si rifanno un passo indietro per lasciare lavorare la commissione. La domanda però che le sta facendo Tremolada, secondo me, è interessante, perché ha un risvolto che non è accademico. Noi adesso abbiamo cominciato a parlare di tecnologie in maniera un po' così molto discorsiva, sui numeri. Però quello che si stava guardando anche prima di arrivare a Copenaghen, ma che si sta guardando anche nelle regolamentazioni europee, e che si sta pensando anche in molte amministrazioni comunali, cioè di fare un geoengineering che forse non è di scala planetaria, ma è sicuramente di scala locale, e penso a tecnologie come tutto quello che può essere riflessione dell'albedo, un certo tipo di riforestazione, culture che siano in grado di abbassare le temperature al suolo. Queste sono tecnologie che non sono come l'eruzione del Tambora del Pinatubo, ma hanno un senso da applicare, oppure dobbiamo mettere da parte anche queste? Ma direi che prima di pensare a queste cose in modo molto velleitario c'è da fare molte altre cose molto più serie. Ad esempio, c'è da sicuramente risparmiare, questo conviene, buttare via le risorse non conviene mai, e qui dobbiamo renderci conto del fatto che pro capite negli Stati Uniti il consumo di energia è oltre 3 volte quello italiano, ad esempio, e perciò comincino a sprecare di meno, perché buttano i soldi, questo è già abbastanza stupido, e certamente buttano i soldi anche danneggiando l'ambiente, perciò già su questo c'è da fare molto. c'è da fare molto anche semplicemente non pianificando le attività umane. Quando abbiamo tante attività che si spera che facciano qualche cosa e poi non la fanno, c'è una lunga storia di cattedrali del deserto, di grandi fabbriche messe su che poi hanno mai prodotto niente. Ecco, Vaga, però al di là del tema dell'efficienza, che sicuramente è applicabile non solo a questo settore, non trova paradossale che in un momento in cui la scienza appare abbastanza, insomma, per grandi linee, ma diciamo che per la prima volta al mondo, completamente schierata su un'operazione politica da fare, ed è la seguente: insomma, l'uomo deve diminuire le emissioni di CO2, in un momento che vede appunto gli scienziati compatti o quasi tutti compatti, ci sono anche voci discordanti, tra cui la sua. Cioè, ma la mia, io sono fra i più piccoli, lei prende Freeman Dyson, uno dei maggiori fisici viventi, che dice le cose che ho detto io, prenda Roger Pilke, prenda il professor Luigi Mariani di Milano, tutta gente, professionisti che non sono affatto d'accordo, e quando poi vediamo quelli che sono d'accordo, vediamo che sono accusati di aver cambiato i numeretti, e allora è un accordo basato un po' sull'imbroglio, forse. Ecco, è chiarissimo. Quindi, potenti, Antonello Pasini, quindi un grande abbaglio, cioè c'è un imbroglio sotto, anche, cioè, la cosa che voglio capire è qual è il ritorno di parte, quindi, degli scienziati, come ci sta dicendo Roberto Vacca. C'è un ritorno da parte di questi scienziati, semplicemente finanziamenti alle proprie ricerche, oppure non stanno esattamente così le cose? Insomma, cerchiamo di capirci. Innanzitutto sono state trovate, diciamo così, nel server di questa Climate Unit della East Anglia delle email, no? È come se venisse registrata una nostra conversazione al bar. Allora, io al bar posso dire quanto mi è antipatico quel tizio, quanto farei per toglierlo dalla faccia della terra o chissà che. Dopodiché si prendono queste frasi, le si estrapolano al contesto, si dice che si sono usate delle parole, per esempio trick, che in inglese letteralmente noi lo tradurremmo come trucco, ma in realtà non è, perché magari è una parola che si utilizza per dei filtri statistici, eccetera eccetera, diciamo, per il maneggiamento dei dati e così via, cose che si fanno nella statistica, perché ovviamente non si possono prendere i dati grezzi così come stanno, perché magari 200 anni fa le temperature venivano prese alla luce del sole, cioè il termometro era messo non riparato alla luce solare, adesso lo si mette in una cabina chiusa e ovviamente quella temperatura è chiaramente sovrastimata, se noi intendiamo come temperatura quella che definiamo oggi dentro la cabina. Insomma, quindi queste operazioni vanno fatte, insomma, poi non sono trucchi, sono riportare i dati ad una loro omogeneità, eccetera eccetera. Insomma, quello che si vuole estrapolare è che c'è stato tutto un complotto, però le teorie del complotto ce ne sono infinite nel mondo, no? L'ha detto chiaramente Al Gore, che ha detto una cosa, io non sempre sono d'accordo con Al Gore, ma questa volta sì. Allora, c'è anche chi crede che l'uomo non sia stato sulla Luna. La differenza fra questi signori che credono che l'uomo non sia stato sulla Luna e questi signori che invece dicono che l'uomo non cambia il clima è che dietro i primi non c'è nessuno, dietro i secondi probabilmente ci sono delle lobby finanziarie estremamente potenti, e tutti avrete capito di cosa parlo. Allora, bisogna chiaramente andare a vedere cosa è successo nella scienza. Allora, innanzitutto non è l'unica serie storica quella dell'East Anglia, ce ne sono altre in qualche modo indipendenti che guarda caso fanno vedere le stesse cose. Poi se una persona mi dice io quello lì lo manderei tanto volentieri a fare lavori forzati, questo non vuol dire che poi lo faccia nella realtà, insomma. Quindi bisogna vedere cosa è stato fatto sulle riviste scientifiche e soprattutto sulle riviste scientifiche referate, non scrivendo su Topolino o su qualche giornale parrocchiale. Quindi fissiamo il punto: voi climatologi non siete in grado di mandare nessuno ai lavori forzati, questo ci tranquillizza tutti. Meno male, meno male. Ecco, una previsione sul dopo Copenaghen. Abbiamo minuti per capire. Cosa succederà? La domanda è: cosa succederà secondo voi una volta finito il vertice? Comunque finisca, perché non sappiamo naturalmente come finirà, ma dopo Copenaghen che cosa si avvierà secondo voi? Partiamo con Vacca. Quello che si dovrebbe avviare, che la gente dovrebbe studiare un po' di più, l'ultima dichiarazione di Al Gore di pochi giorni fa è che secondo lui un certo altro scienziato ha ha detto che fra 5 anni d'estate il ghiaccio polare sarà completamente sciolto. E semplicemente non è vero, nel senso che lo scienziato da lui citato ha detto: io non dicevo questo, e se volete, se chi vuole mi può scrivere, gli posso mandare la però non diamo colpa ai giornalisti, che hanno interpretato male le parole dello scienziato. Abbiamo ancora 30 secondi, una battuta appunto su cosa succederà dopo Copenaghen anche con Antonello Pasini. Lapidariamente ci sarà ancora da lavorare, nel senso che sicuramente non si arriverà ad un accordo definitivo e quindi bisognerà lavorare sul concreto, insomma, forse si fisseranno i paletti, come dire, concettuali, ma sul concreto ci sarà ancora molto da fare. Ce ne rendiamo conto. Io ringrazio Roberto Vacca, Antonello Pasini. Per una volta abbiamo parlato, insomma, due pareri un po' discordanti, il che effettivamente ci sarà un po' da lavorare. Nova Lab 24. Bentornati, 16:46 e 59 minuti e 47, sto facendo il countdown. Luca Tremolada, Guido Romeo, Pierangelo Soldavini. Insomma, noi parliamo di clima anche su Nova, domani in edicola al Sole 24 Ore. Parliamo sì su Nova, io stavo ascoltando in silenzio perché qui si dibattono di grandi teorie contestate. Noi su Nova, alla vigilia dell'accordo di Copenaghen, presunto di una conclusione di Copenaghen in un senso o nell'altro, andiamo nella stessa direzione dicendo: ci concentriamo su Copenaghen, sugli obiettivi, sui fenomeni globali, però è importante anche la piccola azione quotidiana, non tanto del singolo ma delle città, per cui la concretezza, come diceva, mi sembravano tutti e due i nostri ospiti in precedenza, cioè bisogna essere concreti. Erano d'accordissimo, non erano d'accordo, certo. Però tutti e due parlavano su mi vedo Vacca su un SUV e Antonello Pasini in bicicletta, però vedi che anche Vacca diceva comunque l'importante è il risparmio, se gli americani consumano 3 volte tanto gli europei, l'importante è il risparmio. Allora noi siamo andati a vedere un pochettino, prendendo un rapporto recente di Atomium e Siemens, un po' i comportamenti di eccellenza delle varie città, e siamo andati a vedere le piccole cose che stanno succedendo al di là dei grandi dibattiti. Te ne posso citare una molto semplice, che probabilmente è il sogno di tutti i sindaci: le luci a LED per l'illuminazione pubblica centralizzate, per cui hanno un indirizzo internet e possono essere regolate centralmente, per cui la mattina che il sole sorge prima vengono spente, vengono regolate a seconda della cosa, e che permette grossi risparmi. Così citiamo, per quanto riguarda la CO2, l'energia, le fonti rinnovabili, l'aria, così esempi di la città comunque diciamo più le città ideali virtuosa, a partire da Copenaghen, esatto. Da Copenaghen, che 15 anni fa era una città morta, che stava perdendo abitanti, ha saputo, scommettendo su questa, sulla sostenibilità, ha saputo rinascere e ricominciare a crescere. La popolazione rimane, e sarà un caso che adesso questo contestato. Quindi dobbiamo andare tutti verso Copenaghen. Dobbiamo andare tutti a Copenaghen, visto che siamo vicino alle vacanze, possiamo farci un pensierino. Infatti. No, tra l'altro, un'indicazione di servizio su Twitter, cancelletto, per seguire Working Capital, che è appunto un momento di incontro sulle nuove idee del web, c'è Telecom Italia, c'è un sacco di gente e c'è una grande discussione, insomma, anche sulla neutralità della rete, su quello che deve essere il futuro di Internet. Basta inserire per partecipare, per seguire quello che sta succedendo, cancelletto WCMI. Diamo un codicillo così. Intanto un'ultima occhiata agli SMS. Insomma, mi si dice Mattia da Monica dice: non è assolutamente l'unico Vacca a dire quel che dice. Sto finendo ingegneria ambientale e ve lo posso garantire. E sono in due. No, sono molti di più. È vero, c'è un dibattito. Credo che servano tutte le voci. Sì, no, questo sicuramente. Andiamo a vedere un altro SMS. Cosa succederà? Si domandano. Assolutamente nulla. Ma questo è, diciamo, forse una delle poche certezze in questo momento. Cioè, un accordo vincolante, scriveva anche sul blog oggi Antonello Pasini, è complicato alla luce di quello che sta accadendo. Sì, ma la cosa interessante, secondo me la cosa interessante che emerge anche da Nova, che troverete in edicola domani, è proprio questa. Cioè, l'accordo internazionale magari non c'è, ma le singole città, e ricordiamo che le città contano moltissimo, più della metà della popolazione mondiale vive nelle città, le singole città si stanno muovendo, e nelle città nel 2050, uno degli orizzonti che, di cui si è parlato a Copenaghen, ci vivranno tre quarti delle persone nel 2050. E ti posso dire che il 75% della CO2 mondiale è prodotta nelle città, quindi il 90% del nostro tempo lo passiamo in casa, lo sapevate questa cosa qui? O tra parla le per mura, te tra le mura. Vabbè, basta, se abbiamo concluso qui, noi ci sentiamo domani alle 16. Un saluto a Guido Romeo, un saluto a Pierangelo Soldavini. Buonasera. Ciao. Nova Lab 24.